Antonella. No, siamo io, Maria. Beatrice, ciao. E così ce la conservo. E cosa? La macchina? Le passatrice? Stavo guardando qua in piazza, hanno messo i marmi lì, ai bordi della fontana. E speriamo che duria. Il disegno sembra carino, come è fatta. Poi chi lo sa, Se l'avessero inaugurata domani, vedi, sarebbe stata una bella cosa. Ma comunque penso che a gennaio, metà gennaio la penso, che la consegnano. Perché c'è su internet, se tu vuoi, c'è l'immagine, Piazza dei Turi, cioè sono i tempi che ci sono voluti per finire. Cioè prendete e finire. Ehi, cazzo, avevi dato un telefono, ci sono attesi le luci di Piazza dei Turi. Sì, adesso, cazzo, mi stava la donna guidando il rimorchio, lì a 59. Senti su nuda, tro, cosa hai detto? Mi sono bucciato avanti, era 8, ho girato a destra a 59. Ah, cosa è? Bella, guarda la ragazza. Il microfono stai usando, quello piccolino? No, il portatile, senza il microfono attaccato. Ma fa rumore, tra il PTT. Guarda. Adesso no. Sì, sarà un problema anche potenziometro del volume. Infatti quando alzo il volume, quando va basso. Ma su cucinate o te lo porti a casa tua già pronto? E che cosa? Mangiare stanotte. No, lo porto già pronto. Ma poi lo mangiamo così con salsiccia e formaggio. Appena arrivo lo fate ne vorrà subito, capito? Noi, chiaro, se compriamo blu i suguai, no. Mangiamo quello, direttamente quello che c'è da mangiare e basta. Sennò vabbè, già ci sono gli antipasti, cioè il coso, quello con i spinaci. Perché quando va bene noi mangiamo verso le 10 e mezzo, capito? Tanto sennò dopo ti viene a baranuia se mangi all'otto, ti viene un giorno a andare a mezzanotte. Però prima, sai, per una pretesa chita, venighito, arriva magari il vino e il formaggio del paese suo, finché, come fai a non assaggiare? Anzi, devo ricordarmi di portare la crema di limoncino, che è fatta dall'anno scorso. Ah, oh, ci abbiamo invito. Oh, è quella con quei limoni lì, capito? Fatta l'anno scorso, è la mia vicina. Adesso me la faccio io quest'anno. Che bello. Sì, adesso compro l'acqua, 2 bottiglie, davvero. Quanto costa? 20 euro la bottiglia, litro. Purtroppo sì. Ma io ne faccio 3 bottiglie piene, ne faccio. Ah, 3 bottiglie da un litro piene? Da un litro e mezzo. Da una bottiglia di alcol. Va bene allora. Sì, perché poi non è che capito troppo forte né troppo dolce. Deve sentire l'alcol giusto, dai. E poi essendo crema. È cremoso, Io mi ricordo che me l'avevano fatta, ma l'ho da bevuta, già una di. Sì, è buono. Questi limoni sono eccezionali per fare quella roba lì. Poi una giù. Ma di un bel ancora. No, così sei, è per assaggiarla, ma niente. Volendo quella forza qua, ci abbiamo anche il mirto volendo, ma comunque il migliore è fatto in casa, Perché la tieni sempre quando nel pozzetto, quando viene qualcuno, capito? C'è quello, l'acqua vite, sempre qualcosa di tenere, non puoi offrire una lattina di birra, secondo non te ne bevo, non capisco. Dopo pranzo. Se non viene, anche se la cena abbiamo il vino bianco, ci ha regalato il padre buono, Poi quello rosso, diciamo che a me così non piace, mi piace che rimanga un po', non dico dolce, un pochettino. Vabbè, il suo dolcino il vino, no? Poi ci abbiamo sfumato, e quindi roba via, voi, dai, venne, venne. E lui, ludando, e lui, ludando. Comunque, quello bianco è buono, quello dello zio di Usini, che lo sta vendendo, eh. Se ti interessa, fammi sapere se qualcuno lo vuole. Ah, ne sei già tu una Natale di questa coppia di Uri che viene qua, adesso ci sono anche stanotte, ti ha portato questo rosso veramente, cioè, è rosso e bianco? Il bianco non l'ho assaggiato perché il bianco a me quasi mi fa molta acidità, mentre il rosso è eccezionale, caspita, non è di Guido stopposo. Infatti io preferisco il rosso e il vino, sì, ruglio, e vabbè. Che se là se ci bisemmo poi vende il regalato. Comunque ciao, l'usia di Marino sta andando a 250 litro, è buono come prezzo. Devi prendere, se ti piace quel vino rosso dolce così, Lambrusco, Lambrusco dell'Emilia. No, no, no, ne stanno anche loro, eh. Ehi, qual è la buona? Tu assaggi il Lambrusco dell'Emilia, dopo mi torni a Repubblica. Però va bene idea per pulire l'antenna. E alla fine dopo io ero lì, ma guarda come vi sentivo su boom baghi tu cucia e non faccio di nai quella che ti va manco un coso di metterti a fare, a cercare, quando non ne vogliono fare non ne vogliono fare, non si sta lì. E lui se l'aveva fatta mi aveva dato una mano dura, stato anche se non c'era bisogno, ma lo sai che proprio non ne ho. E se la mia mi piazzata, ma ha detto non va via di là, dice io prendo 500 euro tiro al mese, quindi ti busso un vaio. Con l'antenna io, quando ho levato l'antenna VHF, no? Che ho levato il tappo dietro dove c'è il connettore, di sta rugginosa, non ti va a funzionare oggi con questo. Ma io, cosa da dire, le antenne non sono messe male. Perché da giù non c'è, venne peggio di vizio, sono ancora funzionando. Alla fine invece cosa era? Tutt'altra cosa. Diciamo che alla fine su lo dava giù gratis, sì, capito? Infatti sta giù male di 20 euro della benzina, adesso la fuggi. Ah, hai fatto lunga. Tanto no, secondo me non ne avrebbe aggiustato, non ne avrebbe cambiato. Come Idro Martessi, lo conosco, il fratello, cazzo, questo è così, un casino così impianto, no, oh, ho preso con fuggito, dai, no, gli altri scendi di capo, cazzo, e abbiamo poco di scatoli, c'è una scatola principale, che lì c'era il, come si chiama, c'era il, quello che fa le, vabbè, il partitore di antenna lì, no? Ad un ingresso di uscita, che fa uno in camera da letto e se non ero l'altro in soggiorno, però mi stava dicendo che ne ha un'altra lì dove fanno le feste, tipo non so, boh, nella, diciamo un'altra stanza, un'antenna così di 13, non ne ha coso amplificato, deve vedere tutti i canali, mi ha detto. Allora cosa buon amplificatore lì? Cosa ne so, boh, infatti un po' di strano, secondo me non ce l'ha fatta senza amplificatore. E vabbè, comunque se lo vuoi va, beh, se lo sa arrangiare. Sì, infatti, bisogna farsi quello gozzo, no, qui c'è da cambiare tutto e poi sempre sei io a provare, che dopo acciappi lo difetto, come è successo, e chissà cosa pensa la gente, se è che mi voglia fuggire a vendermi tutto tanto, invece tu qua che ho preso un posto, chiedi sul problema e boh. Io non sapevo che l'alimentatore, anche se tu gli attacchi presa, che l'alimentatore. E capi, hai visto quel capo che ho fatto io? Non mancava il positivo attaccato, ma appunto non funzionava nulla. Ah, oh, vabbè, anche su l'ha messa male, cioè praticamente la calza era rugginosa, proprio ruggine. Allora gli ho tagliati i fili, gli ho fatti tutti nuovi, le due calate e il filo che fa, siccome lui c'ha, ti spiego, l'amplificatore VU più una discesa. Poi c'ha un'altra scatola e lì ha fatto il ponte della discesa e poi ha collegato i due capi della discesa. Io prima ne ho collegato uno, ecco perché si vedeva benissimo, perché gliel'ho anche pulito, lui. Ce ne ha uno grosso e uno sottile. Poi cosa l'ho fatto? L'altra scatola fa da ponte, entra con quella scatola che dove c'è VU, che poi c'è la discesa lì, e poi c'ha le due calate. quelle del cavo grosso e il cavo sottile, di cui il cavo sottile è in cameretta, cioè, l'ha passato sotto traccia. E si è andato avanti in lista, l'avevo pigliato 50 euro, ma che comunque è stato, ha controllato, abbia pulito, tagliato, rifatto. Meno di 50 euro non se ne sarebbe andato da lì un attimo. Lo so, cosa vuoi fare? Già non anche, dammi 20 euro alla cucina, avevo tre mulò. Ormai queste persone, se uno la vuole fare la cosa non si fa problemi. Cazzo, vogliamo un passo già pure tu d'orra, piazza di un amicelatori, hai tu sul piazza Vaeddu. Ma se cazzo mi siamo andati a fare? Chiama Donato, ti va a accompagnare. Lui non si parla col fratello, se no magari l'avrebbe accompagnato. Io Marco lo conosco da qualche anno, ma non mi pare un tipo, cioè, per come lo conosco io, un tipo tranquillo. Poi quello che è successo non lo so, boh. E allora fate un duce, tu devi chiamare la gente già con l'intenzione di risparmiare, cercare di non comprare niente e fartela aggiustare alla fine gratuitamente. Ma infatti, ma pulizia, passa la battuta di pulizia, all'asilo. No, proprio piazza la pulizia, tra parte vicino a Graziano. Se ha fatto un pulizio a tappi si ne è forato. E lui, anche il pulizio non se ne impara, non se no i culi. E allora, sei buona traccia? Sì, no, ma non dura di fuso. Adesso faccio lo giro dall'altra parte. E lui? E lui? Ho fatto una bella giornata oggi. E domani penso che sia uguale. Speriamo. E lui sta passando vicino a te, la vedi? E lui? E lui? E lui? Stufo! E chi è questo tutto rumoroso? Parla. Cucù. Ha detto Luca Gnogno. Cucù. E Caruffo. Mi appelli. Ma è in qualche punto. E dove? 59? 33. Eh? 33. Mia colazione, omelette, passato, io tanta via. Oh, 33 non me lo dà a me. Sarebbe a coso, mia food network. 33. Così è lui, 33. Eia. Ma non me lo dà, forse vuole aggiornato. Come mangiano gli americani a colazione, omelette, uova, pancetta, bacon, di papà via. Boh, sta facendo la ricarica, va, senza la ricarica, la scansione. Vabbè, non era aggiornato. Io. Argumenti, mangiane a colazioni, gli americani. Sì, ma poi cazzo me lo devo rispostare, sì. Adesso 4 lasciamo, me lo metto per il... non si riballa. Oh, tutti in fila te li mette, dalla RAI, canale 5, Italia 9, me li mette tutti in fila. E anche di Max, tutto in fila mette, 52, 56. Vedi, mi dà Renault, RAI 2, RAI 3, e poi il canale 5 non c'è. Fanculo, va. Sì, vabbè, vai nella lista a vedere dove te l'ha messo, te lo sposti. Vabbè. Oh, non li mette in ordine lui. Ma non è che per caso sto hai il digitale esterno? No, solo in camera da letto non è a digitale esterno, sono tutti così, sono tutti incorporati digitali. È molto strano, boh. Anche quello di mia suocera faceva così, ma è perché è esterno, capito? E beh, guarda nella lista canali dove li ha messi, che li devi spostare, che due o tre. Uno dice Channel 53 UHF. E cosa ti ha messo a 33? Buono, lo so. Pochi canali mi sta dando. 65 canali mi ha dato. Oh, sono pochi canali, Sono pochi, sì. Chi altro me l'ha dato lui? Food. Io. Ma comunque mi ha trovato 60 rotti canali. E boh. Strano, boh. Eppure l'antenna è buona, perché l'ho cambiata qualche anno fa, un anno neanche. Sì, con un anno fa, dai. Che pochi te ne ha trovato. Sì, vabbè, tu senti si vecchiani questi tesimi, da quelli là sono... Infatti, va a fine, sono una decina quelli che guardiamo solitamente. Poi su questa antenna pratica ne pidi a 200 e passa. A 300 è arrivato, a 300. C'è questo conflitto, adesso già la torno a fare, aspetta. Allora, modifica canale, no. Area. Ricerca automatica. Controlla alimentazione antenna. No, oh, perché quando io ho piantato l'antenna, che Marina ha fatto la scansione, ne ha trovato un bel. Adesso mi sta dando con VHF, vedi? Adesso me li sta dando. Adesso a 22 sono già. Siamo a 32, siamo a 38, 33, 34, 40%. Quanti sono lui, i canali VHF più o meno? Rai e bu. Che strano, però così pochi canali. Sono a 48 e 60%. Fare i coglioni, biglia bruscenti. Eh beh, guardate il telefono. Aspetta. E giù. E lui! Ah, sono peperoni lui! Hai peperoni più piccanti che esistono! Addirittura più piccanti! Se ne c'era la canna di lui! Ah, chi si mangia un bel, ho capito chi era! Sai, si campa Ghiglio! Per come mangia, guarda che è una forma meglio della mia, eh! Sì, se va mai! Vabbè, a me piacciono un bel polpette, eh! Poi se c'è anche una cremina, non dico un bel piccante, leggermente piccante, saprà il polistirolo a manetta. Poi ci sono le polpette fatte con questi peperoncini, mi sa. Ah, stava piangendo qua. Sì, no, ok. Già ti piace le polpette, lui. Mangiati questo. Cavolo, gliela messa dentro proprio. No, io morirei. Già, il piccante lo mangio, ma quando è troppo, a me è capitato in pizzeria da anni che mi sono trovato un bel piccante. Mi è dovuto bere la birra fredda per farmelo passare un po'. Guarda, ti sto dicendo, è il piccante nostro, per loro è. Lo usano come digestivo. È vero. Perché non siamo abituati, giustamente, in Messico, in Sizzoni, in America, Buru, per carità, mangiare piccante, bucci. Allora poi si mette un litro di latte, però. Me ne posso dare incendio, ma è pericoloso, è così. Finché, cioè, deve essere una cosa leggera, no? A che ribatti di sciogamo, ma sta scherzando. E quando si mangia 2 kg di roba, che fa la gara a mangiarsene 2 kg, 2 kg, 3 kg, uccide. Comunque quel tipo mangia un bel. Eiu, ti sento, Eiu. Ecco tu, Gundu. Ellu. Eppi. Attento, gufo. Attento, bella me. Eiu. Eiu. E beh, grazie. Dormito, sì. Se mi dispense, il genio, il segno della lampada, è accosta qui. E dove? A 9? Sì, via. Prima ce n'era uno, era bello. E anche cosa c'è? Pazzerie, quasi bambini. L'ho visto ieri notte io, Maria, poi ci siamo addormentati. No, mi ho guardato. Ecco, quello di prima era bello, sì. Ma io lo sto guardando pure io, ma visto ieri notte l'ho vista, con Matt Spencer. Ecco, a fare un viaggio per la casa, ma tu vai arrivare in testa, è un figlio. A barba di pancia, e per il mezzo. Attento! Marchisio! Ciao Luca, buonasera, ben ascoltato. Ciao Grazia, buonasera anche per te, avanti. Ciao Marchisio, Buonasera anche a te. Sto guardando. Eugenio. Tutti Spencer. Sta finendo. A me mi sembra, Graziano, lo sta guardando Bruno Spencer, sta guardando il film porno, Luca. Allora, Grazia, ma queste cose non si guardano, si fanno. È a Luca. Già fatte quelle cose. Hai capito, già fatte le tosserie. Grazia, ma beh, come te la senti stasera? Ehi, a punta di antibiotico. Oggi è il terzo, già mi sta facendo riprendere. Dunque hai migliorato, no? Andiamo bene, vera. Sei ripreso, avanti Luca. E vedi, c'è nessuno più. Luca. Sì, ma chi? Ma tu sei uscito a ratte? No, negativo, è impossibile che esca a ratte perché sono molto vicino a te. No, sono sempre lì nella posizione quella. Ah, vabbè, sono in camera. Ma anche se mi sposto a qualsiasi punto ti non ho problemi a parlare con te. Arrivi forte, benissimo, anche se ti sposti arrivi sempre lo stesso qua e siamo vicini. Vediamo se Graziano ha finito questo Bud Spencer e te ne sì. Sta finendo. Sì, sta finendo te ne sì allora. Anzi, Bud Spencer. Tra poco siamo liberi allora. Andiamo bene. E allora Luca, cosa combiniamo stasera? Beh, stasera sicuramente mangerò. Ho preparato un po' di roba da mangiare. Mangio spezzettato, un pezzo di pasta al forno, qualche gambero, un pezzo d'agnello, capito? Verdura, frutta soprattutto, e poi qualche sfumantino, vediamo, vinello, un mirtino, e tanto cosa, non mi imbriago, non mi imbriagheggio, ma giusto per assaggiare. Ma mischiando le cose fanno male, capito? O bevi una cosa o bevi l'altra. C'è vino buono, va bene vino buono, oppure sfumantino, va bene lo stesso. Vedo che anche a quello al rubinetto va bene. Lo so, hai ragione che mischiando fa male, lo so, ma giusto, io ho un cicchettino, non è che mi dico un'ampulla, Guarda, ti posso dire, mangio quella roba che ti ho detto prima, passa al forno, Poi magari dopo mi prendo un digestivo, un mirtino, ma poco me. Poco frequente il rito. E poi si andando in piazza, perché sfumantino se basta pure così. Beh, per forza, ma se uno beve nel giusto, non è che ti mangi di gribami, 10 tazzi di vino, 5 tazzi di spumante, 3 tazzi di mirto, no, non esiste, proprio il mirto proprio come digestivo, ma poco, appena appena. Poi, ovvio, mezzo bicchiere di vino mangiando, te lo bevi. E cosa ti fa? Mica su cunia di gusti, No. Guarda, di solito mi bevo una lattina di birra a cena, pranzo a cena. Ma qui su Goodo Candy, d'estate ce la bevo volentieri, ma d'inverno poco, quasi niente. In inverno non tira, in estate tira perché è fresca e piace, ma in inverno è meglio un bel bicchierino di vino che la birra. Eia, Graziano, e beh, Goodo Spencer cosa sta bevendo, birra o vino? Birra, sta fatto un vassoio di vetro. Minimo era 5 litri di birra, tutta una rasata. Sì, tutta una rasata, allora è diventato ancora panzimanno. Lui, un litro di birra rasata, guardi. A un incontitore ne metti 3 litri. Ah, ma è sul tappeto volante. Questa è mia balla, Ma è una balla, è verità, Poi ballano, Bruno Spencer ballano nei disi, sono solo fauri. Alle perduta si ne andendo. Ehi, allora che ti sai? Ma che casino non è entrato, che sono un maschio, non sei inteso per nulla. Nessuno, quanto io fa papà, non vedo nessuno. E per quello mi ha guardato a figli. Ah, che cosa? La Gian Maria non è inteso, grazie. No, a me prima di là un agi. La lampada di là, la di là, si era sistemi sull'oceano, mi si vicino. Ha fatto diventare umano, da genio è diventato umano. E se fece lo firme, il nonno l'ha visto, avanti, dove avanti. Ho detto, grazie. Vado visto. Aspetta, ma qua, ma te volevo chiedere poco fa, bene, sto uscendo adesso, grazie. E da qui dove sei stasera a casa? Graziano! Graziano, dove sei? In ufficio. Ho detto stasera dove sei, Tobacchi? Stasera, stanotte a casa? Casa, poi c'è freddo. Casa stanotte. Il rifugio Lulù. Siccome i parenti di Marina sono di Usini, no? La mamma è di Usini. E lo zio, che sarebbe il marito della sorella della mamma, ci ha regalato il vino al padre, no? È nato un po' a noi. Questo vino bianco va buono, porca paletta. Beh, se era vino di proprietà non è mica fatto col bastone. E quello sì. Poi a Usini fanno il vino buono. Ne fanno buono, ne fanno cattivo ma ne fanno buono. Quelle vigne vecchie che ci sono, a voglia vino buono. No, guarda, ti posso garantire, non ricompri nulla di vino, ma questo è buono, eh. Io il vino devo sentire, deve avere poco quel dolcino, ma no, assai, sennò è poi stomachevole. Ma questo ti posso dire che è buono, amabile. Buono con l'amabile, buono. Quello si può mangiare anche con un pezzettino di panettone. Allora, gustandolo, ciao, si sente quel, come si dice, sapore del filo ferro. La gradazione vuol dire che è alta, sentirsi l'alcol. Senti, infatti il bicchiere, li metti un pochino, lo fai girare, lo fai ruotare il vino dentro il bicchiere, poi lo vedi che lacrima. Ma va, ripeto, io non sono un intenditore di vino, ma il profumo è bello, è proprio, si sente un vino doc. E infatti quello buono se lo tengono loro. Anche quello che è vero già è buono, però non è buono come quello che si tengono loro, che lo danno magari a parenti, così un paio di litri per assaggiarlo. Fanno 5 litri, così non di più, ma il resto se lo tengono loro, ma veramente ultimo. E vendere magari non c'è il tanto, perché quello buono ne fanno poco, perché sto parlando, ripeto, dai cipi vecchi, cipi che hanno già 10, 15, 20 anni, troppo vecchi, quello produce vino buono. La vita è giovane, è vino più scadente, capito? E dunque quello buono lo fanno una parte, l'altro quello lo mischiano, lo vendono. Ma tutto lo fa il vino, Bacchi, sì. Come? Ho detto, tutto lo fa il vino, sì. No, non ne ho, ce ne sono due filari e la taglio uva da tavola così. Avanti, grazie. No, Claudio. La già mangi stanotte, grazie. No, la mia sta facendo anche le lenticchie con il cotecchino. E dunque, sei in pochi ma buoni, così è, grazie. E il vino, se non ne hai vino, allora ti pigliani al coso, a gola ti pigliani, capito, lui allora bisogna andare da Graziano a giocare a tombola, veniva a tenere a tutti. E la Luca stava aspettando che prendesse Luca, invece non riprende. E io, stasera sono qua, siamo qua in casa al caldo, la stufa è in funzione, dunque scalda ancora, quando a mezzanotte la moglie è calda la casa. Sì, ma adesso a mezzanotte basta spegnerla, tiene quel calore, perché poi se cosa succede? Se la spegni quando stai uscendo ti fa male, invece la spegni prima, si abbassa un po' la temperatura e uno può andare benissimo in strada. Sì, è passeggiata da piazza, non te la fai. No, ha passato un raggio, dammi da tutti i clienti. Sì, è sicuro, Tu hai tornato a ripigliare coi piedi di grazia. Luca, non devi andare, Luca, ci vai in piazza? Sì, in piazza salgo. Vedi, con lo spumantino mi graziava, anda Luca. Poi c'era qualche amico lì. Ce lo beviamo, no? Ma da poi alla fine uno spumante 5-6 bicchieri non viene più. Troverai qualche amico lì e va a finire, come si dice, va a finire che sarebbe più mezzo bicchiere lì. Sì, se ti avanza mezzo bicchiere, secondo me le persone che ci sono non basta neanche un quarto di bicchiere. Vabbè, prima zubuni poi la piscina mia, da poi ce ne avanza. Cioè c'è qualcuno basso che avanti? Mi sembra la voce di Paoletta quella lì. Paoletta, tu ridi. Passa, grazie. Ma da lontano sta parlando, grazie. Non intende nessuno. No. Ti sei abbassato però, grazie. Come ti mai? La batteria sta andando a farsi benedire. Ora ti allontani la radio da bocca. Ed è oltre male la voce. Capito? Oltre male la voce. Non è così, Luca? È da lontano, ma non so chi sia. E non riesce a capire che basta. Si arriva a tratti, Non sarà Gio Maria, non la gente di Barista. Ma non è Gio Maria. Attento Gio Maria, tu sei. Poi Gio Maria è tu. Attento. Scarica e basta. Ti ho sentito con Giulio, infatti sono andato da salutare, stavo salendo la campagna in macchina. Ho salutato e sono rimasto in quel Rix perché stavo guidando. In strada non si sa mai che trovi. Non ho sentito neanche io. Né a Torre né anche a Marino. Nulla, se non era sentito Luca, avanti no. Grazie a Luca è andato a fare lo spumantino. La pizza, è andato a fare lo spumantino. No, stamattina ho portato la radio in campagna a farmelo resettare perché io non te l'ho incasinato. No, ma io stavo parlando, poi mi avete detto passa la frequenza tutto e tutto. No, non me la prendeva quella frequenza lì, non me la accettava. Ma non so cosa cavolo abbia toccato, non sentivo più nessuno. No, quella frequenza era di amatoriale. Non so cosa sono andato a fare, a provare, a fare. Nulla. E me l'ho incasinato, sono stato tutta la sera lì. E poi cos'era? Una cavolata era, perché l'ho portato al commissario di campagna, che era inglese, lo massimo. E mi ha detto, vedi che è una cavolata, se invece essere in U, era in V. Oh, ma quanto dura più o meno una batteria? Una batteria, cioè, quanto, un giorno fa, così è. E anche di più, secondo l'uso che fai tu. Un giorno intero me lo fa. Come sto usando? Lo sto usando con voi così. Sì, no, io sto usando un altro sistema. Ci ho infilato la radio nel caricabatterie. E il caricabatterie sta sempre in funzione. C'è la scatoletta dove metti il discorso, la radio per caricare, e lo tengo dentro lì e la presa inserita e sta uscendo e entrando la corrente. Sì, è sempre inserito e così non ti manca mai, è sempre allo stesso livello. siamo tutti e con quella all'altra se ne sbagli e si sta per stamattina sta con questa e sta con quella e non è anche che sbaglia di stare a lasciare la patata quando lo ha detto quando non lo ha detto a lasciare il tempo e non mi riesce a fare fino alla fine così risparmi la batteria. Perché invece stare lì a staccare e fare, lascia sempre inserito e si carica da sola, capito? Io sto usando quel sistema lì, rimane appoggiato sul coso, sul caricabatterie. Avanti lui. Aspetta, c'è qualcuno, chi è che vuole entrare avanti? Chi è? Chi è che vuole entrare avanti? Capo, non vuole entrare. Comunque, vabbè, giusto così per saperlo, quanto durava. Comunque, quando io termino con voi, cosa ne so, tipo verso le 8, prima delle 8, lo spengo o lo rimetto a caricare? Io sto usando, ripeto, il caricabatteria inserito, con la batteria, e sto modulando con il caricabatteria acceso. Vabbè, interessante che... No, comunque già è un'ultima radio questa, là. Carina, piccolina, va bene. Che marca è perché quella lì? Il GT3, marca GT3. La Boyfeng. La Boyfeng, no. Io ho una cosa, un Vauxhall. Un Vauxhall e un Boyfeng. Vabbè, ho detto che il GT3 che è un'ultima radio, quella che c'è in commercio adesso. Cioè, è molto venduta come radio perché dicono che esce bene, poi non lo so, ha molte funzioni. Si sente, esce bene, si sente. Anche che cosa penso sia più piccola di quello che ho io. Questo qui che cosa è? 10 centimetri, 11 centimetri sarà di altezza. E mi basta andare su internet e scrivi Baofeng GT3, il modello è questo qua, GT3TP. Poi ci guardo a vederlo un po' come. No, il primo che l'ho preso era un Baofeng, un coso, un Vauxhall, ho preso una tonnellata. Poi che ho preso questo qui. Un Baofeng RV5. Ah, tu stai dicendo il Vauxhall, capito? C'è il Vauxhall, ma ce l'ho già quello lì, con 4 anni. Ogni tanto sento qualcosa di... qualcuno che vuole entrare. E tu pensa che ho messo lo squelch a 2, prima era 1. Perché ieri era fastidioso, me la apriva sempre. E sentivo il rumore del QRM. Quello lì è. Avanti, c'è qualcuno che vuole entrare? Dimmi, grazie. Vorrei GT3 Mark 3 Mark LGT trattino 3 TP Taranto Palermo. Guarda che c'ha i fianchi arancioni, il PTT, e poi dall'altra parte dove inserisci le cuffie sono arancioni, poi alla tastiera arancione. E l'antenna è sottile, non è come la tua grossa. Già poi già l'hai visto pure tu, grazie, che te l'ho portato a casa. Mark, no market, Mark, M-A-R-K, Mark, 3 Mark, no Mark 3, scusa, Mark 3, guarda, va su internet, te lo mando su WhatsApp, così lo vedi, aspetta. Ehi, grazie a Mark, ti ho detto. E poi mi ha fatto guardarlo su internet, ha detto, per non alzarmi, se l'ho riguardato. Il tuo ce l'hai anche tu, quello lì, il market? RA. 5RA, no, io ho Vauxhall 5, RV5. E visto il Wi-Fi, UV5RA. Forse quello è uscito dopo del mio. Io questo ce l'ho 3 anni, e 3 anni questo ce l'ho. No, questo ce l'ha prima a me. Me l'ha messo qua fuori. Tanto che l'avevo preso, che ho dato a Franco, era uguale identica a questo. avevo preso due, ne avevo presi. Uno me l'aveva ordinato Luca, questo, e l'altro me l'avevo ordinato io dalla Cina, che l'avevo pagato ancora più poco. Quando l'ho preso io l'ho pagato 49 euro, più spedizione. E anche 36 euro sono arrivato a spendere, e me l'hanno mandato dalla Cina. E ho aspettato un mese e 15 giorni. No, questo in due giorni lavorativi ci ho messo. Avanti che ha fischiato. Migranti, ti stavo dando la foto su WhatsApp, aspetta. Eccolo qua. Io l'ho ordinato dalla Cina, è stato presa, non la via, e ho risparmiato. Avevo preso 36 e mi avevano mandato il microfono al mare. Le cuffiette, tutto quanto. Grazie, allora a me mi hanno mandato, vabbè, la radio, poi il caricabatterie da macchina, il caricabatterie da tavolo, il microfonino, l'auricolare, e poi mi guarda, c'è l'antennino, guarda su WhatsApp. Te l'ho detto io, si mette la batteria. Ah, comunque già è carina come radio, è piccolina, va bene. Luca, giusto, c'erano tre puntini, ho cambiato la batteria. Tre puntini? Dove segna la batteria? C'erano tre puntini, poco qua. Si è andato. Vabbè, quanti anni ce l'avevo la radio? Questa sembra che sia buona la batteria, ma comunque me la ordino un'altra. Se ti fa un giro di conti, costa più la batteria che la radio. Non lo so quanto l'avevo pagata, l'altra batteria in più, perché l'avevo ordinata insieme ai tuoi spendi che ho usato a Franco. Vabbè. Vabbè, 49, va. E quello quanto costa lui? Io l'ho pagato, allora, 45 mi è venuto. La spedizione è tutto, viene così. Io l'ho pagato 49, 3 anni fa. Sì, sapra accesa. Allora, sono 43 di radio. No, aspetta, 41,90. Più 2 di ricarica, 44 mi è venuta, dai. No. È poco, costano, adesso costano poco. Stanno calando spesso ogni giorno. Vabbè, la fine ce la fa sul lavoro, dai. Chiaramente alla fine stiamo trasmettendo. Poi c'è un po' la mi aveva prestato Luca, era un casino. Funzionavo bene. Io avevo fisso, la stazione fissa, era 25 watt. È arrivato difettoso, ma il difettoso si è morto perché dopo 15 giorni si è bruciato. Sì, addirittura. Era a massa. C'era un diodo a massa, cosa, nel jack delle cuffie. Ma poi non è roba che si può cambiare, perché la roba è miniatura, proprio ci vuole la lente per vederlo. Sembrano cacche di mosca. No, vabbè, io già, se mi metto, che c'ho il petto, già lo cambio. Già c'ho la macchinetta, quella d'aria calda. Oppure lo saldatore, quello, lo stile sottile. No, ma questo è... se mi capita te lo faccio vedere con la scheda. Se i diodi, resistenza e roba varia sono attaccati una con l'altra, un foglio di carta non ci passa tra una e l'altra. E poi sono in miniatura, cosa posso dire? Una cacca di mosca. Ah, vabbè, io già ci riesco. Io già faccio micro saldature anche. Poi se devo disaldare un micro componente, io te lo dimostro anche, riesco a risaldarlo e risaldarlo. Vabbè, se c'è l'attrezzatura tutto va benissimo. Non avevo tanto anello io, a vedere un po', infatti ne ha smontato. E mi ha detto, cioè, trova il pezzo, cosa, dove lo trovi? È una cacca di mosca, non lo troverai mai quel pezzo, sono in Cina. Ma se ho l'attrezzo adatto non lo metti a posto, non ce la fai. Ci vuole la lente ingrandimento, io uso gli occhiali da vista perché quelli per vedere le cose piccole, diciamo, e in più la lente, e se non c'hai una buona luce anche ci vuole, E poi ci vuole l'attrezzo suo, se non ce la fai. Ci vuole l'attrezzo suo, se non ce la fai dopo. Se ti metti un salvatore normale, quelli che usiamo per salvare un piede, roba varia, sciogli mezzo mondo. Poi ci vuole il, come si chiama, quel materiale, il flussante. No, quelli io penso li fanno a caldo, aria calda, non lo so come li saldino, perché è una cosa perfettissima. Sì, sì, l'aria calda va saldata, ci vuole il flussante. E il flussante serve per non farti attaccare una, come si dice, una saldatura all'altra, se le tiene pulite, anche se sono attaccatemi, tu li metti il vostro prodotto e non si attaccano. Non lo sapevo. Vabbè, tu sei nel mestiere, dunque lo sai più di me. Nel mestiere, io sono un autodidatta, mi ci metto, le faccio le cose, non ho problemi. Se tu a me mi dai una scheda, ti faccio un esempio, mi dici, lui me lo stacchi questo componente da qua e me lo metti qua, io ci riesco a fartelo, che sia microscopico, non ho problemi, lo faccio. Sempre, cioè, se è fattibile, se ne vai alla candela pure di farlo, ma comunque mi ci metto, lo faccio. Ho capito, e vabbè, uno sapersi, tu, perché se siamo così. Così di pazienza, perché mi sembra sia una cosa molto di pazienza. Bravo, allora, io ne ho staccato, guarda, però purtroppo questo ufficio è andato a morire. È un integrato che aveva almeno, non ti dico palle, fai 20, 40, 20, forse una ventina, 20, 40, 80 piedini. Addirittura, un mondo ne aveva. E quelli le staccate tutta una volta? Eh beh certo, con l'aria calda, no? Ho staccato, che si è bucato, non so come cavolo ha fatto, boh. Questo PC l'hanno, forse l'hanno messo. Stavo andando, però l'ho staccato perché ho visto che era tutto a posto. Tu pensi che avevo messo anche il sistema operativo, tutto quanto. E poi, morto, l'ho aperto e ho visto che era forato questo integrato. Sì, una ventina di piedini, per saldarlo è un casino, è un casino, comunque sono riuscito, però non c'ha altri danni. E questo integrato qua che Antonello ne ha smontato, me l'ha messo in un pezzo di carta. Ripeto, una cacca di mosche, se stecca in terra non lo trovi più. E boh, non lo so se altro, non lo voglio criticare, ma non so se ce la fa, perché è una cosa molto difficile, ci vogliono le cose adatte per farlo, se non ce li hai non ce la fai. Prima di tutto ci vuole il flussante, perché se no non c'è quello non fai niente, non fai solo danno e basta. Infatti è così. No, ce l'ho su nella stazione, è buttata una parte perché dice ordina il pezzo dalla Cina, ma cosa ordini il pezzo dalla Cina? Quindi la fate giusto. Perché non funziona così? Quello mi dava 25 watt, era una bomba. Però scaldava, gli ho messo la ventolina, lo scaldava lo stesso. Alla fine si è bruciato. Picca, dal baricchino si è bruciato così. Ma cos'è, un veicolare? Eia, un veicolare. Sai cos'è? È un piedino che era attaccato al jack delle cuffie. La saldatura che c'era prima forse non era fatta bene, allora scaldava. No, io già me le faccio belle le saldature, non li posso, per fare cagate non le faccio, le cose me le faccio io, no. Vabbè, prima c'avevo il saldatore, quello a stilo, ma quello no, lo uso per fare saldature grosse, però con questo che c'ho un nuovo, se le fa una bellezza, ma poi c'ho tutto io, la pasta salda, c'ho tutto. Ho le pinzette piccoline, cacciavitini piccolini, sono un po' attrezzato, ecco. E ti posso garantire che questa stazione ad aria calda riesco pure a smontare i vetrini dei telefoni quando si spaccano, no? Se li devi cambiare. E guarda, ti fa un lavoro che è un bombo. Vedi, anche quello è buono. No, dunque, ce l'ho su quella scheda. riceveva ma non trasmetteva, andava solo in ricezione. In tutta la trasmissione era bloccata. Bacchi, chissà il danno che ha. Però mi sembra strano che sia rotto per via del connettore jack. No, quello bisogna metterlo, parlo con aria calda, in modo che siamo così, il pezzo si saldi unitamente senza scaldare, perché se ti metti a scaldare pare si scioglie quello a fianco, ma uno, non uno solo, ma una dozzina. Mi lascia per lo fare, non è che mica ci metti l'aria calda vicino, no? Prima di tutto è da vedere se si può risaldare con il coso, con il saldatore a punta sottile. Allora, ad aria calda puoi levare quei microcomponenti, quelli piccoli piccoli piccoli, come hai detto tu, che siamo delle cacche, delle mosche, quelli lì. Però se è una cosa molto un po' più grande riesci anche. Poi dipende, dai, dipende dalla distanza. Se no lo fai a cosa? Lo fai a cioccolato. No, se c'è la distanza tra un integrato e l'altro, un cappello non passa. Sono vicinissimi perché è piccola la radio. E sono messi tutti in stretto, ci devono i componenti starci tutti dentro. Vabbè, quello lì è stato fatto a macchinario comunque. Non è stato fatto manualmente, col macchinario l'hanno fatto. Chiaro, quello è fatto a macchina, assemblato a macchina, e io penso abbia saldato tutta la scheda tutta una volta. Beh, per forza, se no, perché il componente se lo surriscaldi, lo bruci. Se la possiamo fare a Graziano, mi Bacchi. Graziano, glielo vuoi fare il tuo Bacchi su questa radio? Cosa hai detto? Ho detto, se la vuoi sistemare tu a Graziano questa radio. La mia, Graziano, la mia, quella che non funzionava, te ne ricordi? È sempre della Baufen, no, un'altra marca, per la stazione fissa. Veicolare sta in tasca, c'ha quello lì, quella si è abbandonata, ne ho preso un altro e mi è costato pochi soldi, un centinaio di euro, però c'ha solo 10 watt. Sì, cambia questo componente che ti dirà lui. E saldare un PL ci vuole anche mia moglie. Il fatto è fare i componenti, piazzare i componenti, grazie a... Attaccare sono buoni tutti, capita. Luca, li stacca solo i componenti lui. Ah, li stacca solo, e comunque dipende se si può fare o no. Deve avere mano ferma, capito. Vabbè, comunque dai, ma io qualche televisore già me lo sono riparato, più di uno. Inizia ad avere già un componente un po' più grande. Adesso vediamo un po' se la faccio questa, no, comprarmi il saldatore ad aria. Non c'è la sfida a taglio, scusa. Luca, lo sai che lo sta per fare? Sta meglio che arrangiata, scusi. Va bene, mi abitava via un sentino, vicino sopra del vicino, non c'è a me. Ah, sì. Che si è sposata, adesso abita a Usimi, non so. No, a Sassari abita, cosa Usimi? A Sassari, però tu avevi tutto questo lavoro, mi sembra, e mi si conosce a Sassari, tu? Sì, no, in una pizzeria. Io di notte da camera di Toretti, da figlio, quando andavo lì, già un tempo già a ristrutturare le case degli ex principali. Tu venivi a Ivi, a Sivigna, l'accoglio, ora è morto. Pariolo, non mi ricordo, Poggio Pilato, che aveva il negozietto di riparazione, televisori, tutto, tutta questa. E lui veniva lì a tenere le schede. Come stanno baciandomi? E chi si sta baciando? Mi stanno baciando adesso. Ah, è una latitudine qua. Cosa? A Sardegna non l'hai più visto. Sì. Certo, guardi questa lì. Vabbè, Sardegna già si arrangia, ma sono già l'attrezzo giusto, grazie. È un casino, non lo fai lavoro bene. Se riesco, me voglio comprare questo aspirastagno ad aria. Non so quanto costa, ma costa. Comunque costa un po' di 100 euro. Ma se ne sarà anche 100 euro. Vabbè, comunque, quando ti saldi fai una cosa fatta bene. Ci vuole l'attrezzo giusto, ogni cosa, ogni mestiere, grazie, ci vuole il suo attrezzo. Non puoi andare a fare l'elettricista senza avere una pinza o un cacciavite o un cercafasse, qualcosa devi avere. E così il coso del tecnico, se non c'è l'attrezzatura giusta, come cavolo farli per la roba? In ogni cosa ci vuole il suo attrezzo. Adesso questo radio sto facendo piccoline. Se non c'hai roba che si possa disaldare, saldare non va bene. E così anche le schede dei telefoni sono uguali, sono in miniatura. Ma infatti, sono cose che fanno con i macchinari. Per fare queste cose, per riparare, ci vuole uno bravo, un esperto sull'elettronica, ma proprio esperto deve essere, con l'attrezzatura. Capito? Vabbè, comunque a me già mi fa molto comodo quell'aria calda, con voglia. Fa il suo dovere proprio. Me l'ho già pagata e sarà pagata. Ma ce l'hai già tu quell'attrezzo lì? È certo che ce l'ho. Allora sì. Allora devo avere. Chi è che voleva entrare avanti? Questo che radio è che stai usando adesso, Bacchi, che c'è il bip. No, ho capito, Luca. Cosa mi hai detto? Io guardando la TV e mi sono destrato un secondo. Ho detto, questa radio che stai usando, che radio è, che c'è il bip? Questo è un Baufeng. E quale? Il VG, il VR, boh. Sì, il 5VR. Ah, chiamano bene lo stesso anche quelli. C'è il bip, già perché? Sì, c'è il bip. Ce n'era mai. Siccome le volte l'ho incasinata, non riuscivo a portarla in sesto. E l'ho detto al mio vicino di campagna, che lui mastica un po' d'inglese, ha detto, già, guardamela così. E ce l'hai spostata, deve essere in VHF, allora me l'ha fatto il resetto. E adesso ho messo il bip, deve essere. E basta andare su Roger e mi metti off. Poi lo faccio, adesso lo lascio stare, non c'è un casino. Ehi, allora, Cenone e Civico, ristorante, pan, San Cenone di Capodanno, menù, 50 euro a testa, che te? 60? 50? Aspetta, voglio trovare. Luca, c'è una nebbia. Ehi, questa... Ma come faccio la pattuglia vicino a casa tua? Attenta, signor Maria! E te bava! Ma non mi togli! Buonasera! Ehi, non è che possa parlare, perché si sente sotto che c'è uno che è morto, quello sotto a me, e qua si sente tutto, si sente, capito? Così che... Ehi, sono entrato solo per salutarvi, vai! Ciao, ci sentiamo domani, dai. Ciao, ciao Giovanni, ciao. Ciao, bacchi anche a te. Ciao Luca e a Graziano, ciao. A domani. Ehi, ehi, a domani Giovanni, buon divertimento. A domani, sì. Ciao Giovanni, adesso ci sentiamo, auguroni, buon anno, a domani, ciao. Luca Gusto, ma non sei Luca Gusto, Luca. No, Luca sta preparando, se altro stavolta devi imbutti, capito. E comunque l'abbiamo visto, c'è un po' di nebbia, eh. Mi ha mandato due foto, l'ho visto poco fa. La radio ho vista che ti ho mandato io. Già me l'ha ricordato, questa foto. Domani, in Giovanna, ma aspetta, però volevo guardare da quel cinese, vicino alla Bristol, a vedere se magari... Io stavo guardando. Ancora c'è il bifi, grazie. Sì, io lo riparto. E tu vado diretto, Batti, mi senti meglio che sta bene i tuoi pezzi. Me l'hanno messo stamattina, deve essere. E io sono andato a toglierlo. E no, non l'ha cancellato. Oh, non è uscito. È sempre on. Lo devo ripetere perché anche io me l'aveva mandato Luca su WhatsApp per vedere come si faceva. Mi ha mandato su WhatsApp, l'ho fatto già, ci sono riuscito alla terza volta. Sì. No, adesso lascio stare, domani mattina fresco fresco, solamente riesco di più. Cosa devi cosa premere? Sì, aspetta, guarda il cellulito, non l'ho cancellato, già ce l'ho, aspetta. Allora devi premere meno e poi scorrere a Roger. Meno, no, non c'è l'accento sulla U qua. No, si chiama me, vabbè, menu, vada su menu, che clicchi su menu e poi una volta che arrivi a Roger, di nuovo menu e ti fa scendere a on off e poi con i tastini, su due tastini, su e giù, da lì comandi il on off. Ho capito, ho capito. Questo non me lo ricordavo, cos'era, perché nell'altro che c'ho su lo faccio andare come voglio. Adesso non mi ricordavo questa cosa del menu. Il menu ci sono arrivato, l'ho trovato. Poi per bloccarlo non mi ricordavo cosa cavolo dovevo fare. Ecco, adesso lo ricordo bene. Ok, avanti grazie. Ehi, anche se l'avevo cancellato. L'ho cancellato, che scemo, come lo volevo lasciare, se me ne dimenticavo. Vabbè, la prossima volta di capiteggia me lo faccio rimandare su WhatsApp. E tutto il procedimento come lo fa? Sì, bisogna ricordarsi tante cose, capito? No, quello, diciamo sì, veicolare, quello ce lo faccio andare come voglio. L'ho imparato abbastanza bene. Questo non mi ricordavo più il lavoro che devo fare, ed è uguale a quello là. Mi asso ce l'ho anche io il bip, senti. Si sente il mio bip, Bacchi? Via, si sente. Ui, ui. Ehi, Già c'è. Chi è? Avanti. Avanti. Il bip vocale. Ehi. Mattia, io parlo. Se no ci arruciniamo qua. Se non c'è il numero, fotti di non li aprire, ti impalla il telefono. C'è una foto di sì, capito, zozze. Quella è una foto truffa. Sì, ma è là, c'è qualche virus, qui c'è Paolo il telefono. La patrumina la devi mettere per il mio. Sì, anonimo, senza numero. Thank you. diciamo, se mi vuoi mi richiami ancora. Buffo, ma te ne compri le mutande rosse, sì. Ehi, no, mi ha mandato anche la foto di questo tipo con una ragazza e il numero di telefono. Tanti auguri, regalo con lui. Luca, adesso ti mando questa foto sulla femmina vista. Però è scritto in sardo. E ho detto, te le sei comprate le mutande rosse per Capodanno? E allora, ti registreno. Tu ma chi? Lo stesso. Con o senza reggiseno? Io volevo reggiseno anche. No, senza, senza, libere. Allora, va bene, dai. Via. Ehi, mi ne sei gana, amico. Che mi basta la gana, perché non... poi mangi, capito? Ti abbuffi, ti mangi, ti piglia un sonno. Lui che te l'ho mandata, la vecchietta. Ma il signor Torre scoppiato, non c'è stasera, non si è affacciato ancora. Poi, allora vieni pipistrelli entra, e come c'è Marino, quando c'è il Zarrelli entra Marino. Infatti, allora mi faccio uno squillo, vedo se mi dice. Secondo me sono o pipistrelli o barbagiani che si danno tutti. O cucchi, tu capelli gita direi che sta a posto. E beh, capito l'hai. Ti piace, me l'hanno mandata. Ehi, grazie, è vecchia quella foto, ipa. E boh, a pezzo, a disegni tu la me l'ha mandata, boh. Rispondi no. Eia, e beh, baffi. Ehi, grazie. Ciao Marino, buonasera. A casa. Ehi, no, non me lo fa cancellare, no, quello. Niente, segnala, spam, blocca o aggiungi ai contatti. Ma io non l'aggiungo, aggiungi, non lo conosco. Blocca. Cosa ha fatto lui? Blocca. Ehi. Lui! Eia! Cosa faccio? Blocca! Senti la palla! Sì, non te... aspari! No, poi una volta che tu fai blocca, clicchi... no, aperto, no. Quando ti... nei messaggi, no? Clicchi sul messaggio che non ti interessa, lo clicchi sopra e lo cancelli e sparisce. Tu rimane bloccato, non ti può più scrivere. Allora non lo bloccare, sei parente tuo. No, abita qua lì, abita. Sopra lì, abita. Ah, ho capito, già la conosco, di vista già la conosco. Se l'hai riconosciuto va bene. Dai, riprendo io per salutarvi perché c'ho gente. Ok, ciao Graziano, buona serata, ciao Luca, auguri di buon fine anno e buon principio per tutte e due, tutte le famiglie. Ci sentiamo domani, ciao a tutte e due con la buonanotte. Thank you. Ciao Marchi, dai, salutoni anche a te. In famiglia, buon anno. Se Dio vuole, a domani, dai. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti e due, buonanotte. Ci vediamo domani. Ciao, ciao. Vai. Luca. Eia, e tu a casa di stanotte? Allora, è un'ipocrisia, già mi sono corretti in legge. Intanto, se voglio ballare, ballo il ballo del Fosacco. Il ballo del qua qua. Il ballo del qua qua. Luca è impegnata a fa, boccarsi. Anche con la Nutella le fa. Già lo so. Abbati che voleva entrare, bello me! Pomponio, l'ho già sentita quella canzone! Luca! Eia! E cosa dici? Preparando la sera! No, qua a letto sono! Immaginami il telefono, sono qua! Eia, eia! Ammazzegli me, ti dico via che mi raccavi! Non ti sento. Non so chi sia, ogni tanto sento la portante. E tu lì sì. E allora? Aspetta che apro. Sta sparando stanno. Trodiando stanno, scorreggiando. E quella musichetta è poco fa, l'hai sentita? Eia. Ma l'Antonello con la musichetta? Io non l'ho mai sentita. Sì, l'ho sentita io qualche volta. E poi? Antonello, Pomponio, sì. Luca Gufo. Luca, fatti stanno in India. Mi sa che inizio è già passato, più farà. Sì, è a lui. Non c'è a casa sua, allora, dai parenti. Da lassù. E già. Sì, mi dà ancora di lì. No, da lassù, c'è dal cugino. Allora, non ha buttato qua. Non lo so. È un po' di nebbia, c'è un bel, tutto bianco. Sì, tutta notte ho già fregata, manco mangi, scommetto. No, primo non era di fatto qua. C'è lui a fare il tubo a ragù, a fare i maccheri, i gnocchetti, quelli piccoli, maruletti. Ha detto, no, non mi posso, da voi avanza lì. Domani posso rimarcare. Ah no, Mariso. Ah, è la polpa dei granchi. Un tegame in plastica alto, vedo quasi pieno. Vabbè, gamberoni. Mi sa che c'ho, porcetto, mezzo porcetto. La metà di... non la metà, la metà della... il zampone. Cosa posso, quello di mascarroni, no. Certo. Vabbè, dai, se vuoi fare domani, a me non si mangia, si ha dieta. E poi no, magari avanzano tutti i giorni da voi. Ragazzi, si mangia domani, di domani non i voli. E cosa devo fare? E faccio il vostro domani. Sempre se non rimane molta roba, se non manco domani mi posso, e a lui. A Natale è rimasta troppa roba, troppo avemmo gusto, io, mia figlia, no. Vabbè. Sì, non vorrei mai dire, sarà un figlio. Ma cucinare troppo non va bene, che la roba l'avremmo cuffata da originale, noi ce l'hanno regalata. A chi la devi fritta? Ah, è beh, certo. A se domani ci vuole lo faccio con quello che rimarrà, tanto sono così duro che mi rimane. Dice, fai su Manuel, va? Beh. E mi sa che, sono tre giri perché non ci sei gara. E poi devi considerare, a mezzanotte il barettone, il bandolo, lo spumante, noci, noccioline, eccetera, eccetera. Cazzo, e chi sono lo gu? Sempre mangiare, la buffa come un turrolto, ma ne manco un'idea. No, infatti, meglio, come si dice, meglio... Un pezzo di ghiso, ma se ti mangi tutto, se ti mangi dentro, se ti mangi una volta ti passa al forno, una mezzo chilo, e poi ti mangi, cazzo, metti i camaroni, e poi ti esci dalla luce. Anche una teglia di pasta al forno è rimasta mia, a Natale, perché le ho cucinate qua due teglie di quelle in alluminio, quelle grandi. Una teglia mi manca di città che ne è rimasta, l'altra è tre, l'indomani non ne curiamo nessuno. E chi se l'ha data da Ugani? Apri la bocca. E così a sprecare il soldo. Ehi, fa la partita, la partita mi deve già mangiare da Ugani. Quello sì. Ma non sono per dire, ha dato un bel carro in bocchino. Oh, l'indomani non ha ne voluto, cosa ci fa? L'ho messa nel contenitore e ce l'ho messa nel postetto. Nell'arco del mese ce l'abbiamo mangiato. Lui gli bucava una vaschetta, lo scaldavo nel forno e ce l'abbiamo mangiato. Quest'anno invece non mi giunta a capo e stava in lampada. Forse magari perché non stavi bene, capito? E te ne sei un po' fregato che non ti interessava. Anche quello. Ma a Capovanna dici non mi butti nessuno. Io devo cucinare tutti i subiti da voi avanti, l'indomani non li mangiano, a chi sono esiliati. E questo l'indomani, se si vuole la cucino e te la mangi in fretta, non ti va. Certo. Per buttarlo. Vabbè, la prossima volta ci pensi due volte, grazie. Al prossimo Natale, al prossimo Natale il manco quando la mia vita. Oh, mangiano come ti ripizzone e ti burumissi. Cosa l'hai fatta a fare di ti fatta al fuoco? A dalla Ugani. La Ugani. Bisogna voglia di dare in chili. Questo non lo so. Mozzarelle, fumati, mazzinato, pelato e tutto il condimento. No, qua, le sfogliate. Vabbè, va qua. Oh, ma che c'è preparate mia figlia? Anche con la besciamella? Tu no, ci metto il prosciutto, sto qua, è bella carica. Ci sono dei zainini, ci mangiate una truccettina. Cosa devo dire? Un cucchiaio, due cucchiai, una frecciata. Ma chi ti butti, ti deccia subito questa roba? Io faccio il fondo, ci metto il sugo, poi metto le fette, cioè, le cose, no? La pasta in fila, dritte così. Poi inizio dal primo strato, metto il sugo, besciamella e poi metto un prosciutto. Mozzarella e formaggio grattugiato e continuo così, ma di buon gumbè, questa è carica. Ehi, anche io la faccio bella carica, ci vola, non esce male, esce buona. Però lo so tutti che avanza l'indomani che la mangiano, non ha alcun punto. Lo so, ma noi ce la mangiamo sempre, non buttiamo niente. Ma io mi sentivo male, se no l'indomani il pezzo me l'avrei mangiato. E cosa mangiavo? Ma ti mangiate una minestrina. E cosa mangiavo? Che una piagana, ma tu la apri bocca. Certo, non ce la fai dopo. Oh, tre notti, te e l'altra notte, minestrina, l'altra notte ancora mi ho fatto con la minestrina, come si chiama? Presarda, buh, adesso mi ricordo il nome, che è buona notte con la minestrina. Cosa mangia? Noi abbiamo mangiato un giorno. Pensavo 63, avevano preso 61. Picca, te ne preso 82. Pensavo allora, quando insomma, stavo così, 68. Poi sono andato dal diabetologo, mi ha pesato 63. Poi mi ha fatto i vaccini, mi sono finito giù mani da voi. E aveva preso 61. Per forza il pane non è che ne mangio, non è che qualche volta mi posso mezzo panini, tanto va a mangiare, mio, così, però non ne mangio, mi ribo un piede. Un piede solo? Sì, riesci a dire. Di qua stanno passando. Dove stanno andando? Ma non è che lì se noi lavoriamo con nebbia e del caffè incendio. Sì, sicuramente. Sta che era tutto qui, già sto messo che invece hanno incendiato il caffè sopra, e c'è già. Certo di fumo già se ne intende pure. Sì, vabbè, sa camminetto. Boh. Non ci darà parte della scuola, da vergine. Ma è lui da che macchina? Oh va, non si sente più, sono fermi più avanti dell'alberghiere, a dare giù di dove sei tu. Sì, sì, ho capito. Boh, non si sente più. Sicuramente si sono fermati in quella zona lì, via. Sì, sì, via Orto Bene. Non ne butto buca qualche macchina. Iaia, per carità, va. Stamattina? Stamattina, mi sono decidato le 5. Troppo visto. Sono rimasto lì a dritta, a sinistra. A base d'ora, lì si, beh, avanti. E mi sono pizzato. Ho fatto il caffè. Ho messo il pergamino a farlo in sé, nel frattempo mi ho fatto l'insulina e mi ho guardato il telegiornale e insomma tra una cosa e l'altra erano in sé. E anche stamattina, mi ricordo, mi sono svegliato. Non beh. Ma io qua non dormo 2-3 ore, non dormo di più. Invece sto qui da dritta, mi attesa, mi ricominciano a venire due ore all'ansia, arrivarci all'ultimo, dall'altro punto. E me ne alzo in canna, se no sto qui, invece il piede mi passa. Beh, certo. Uia, è un casino. I due sono fai. A me, lui, mi ha due ore all'ansia, ma due ore, e non lo state mi dire, ribatti. Lo so, purtroppo viene a noi vivi, non morti, ai morti non li viene nulla. Non l'hai inteso da nuovo, chi ha le bicicletta di bagana d'acqua di 25 euro. Picchietta, addirittura. Chi si sono morti, ma non so come si fa di nausa. Sta diventando uno schifo, veramente. Tra un po', vedete, ci fanno pagare anche a noi quando usciamo fuori a respirarci l'aria. E chi sa di altre cose a farmi pagare? Quando entri in bagno sei pagato. Non lo sa se ti compare di carta igienica e palle guardie. E se la poni inclusa nella tazza della mondetta. Il corso del bagno, solo in Italia per fondi di silenzio, tutti con i morti, hanno voluto patentino, assimilazione, bullo, guarda se ne vedi morto in giro, come un vento. Targhino anche, io la targa l'avevo pagata. 80 euro. Anche io la motorizzazione. Per il cavalcato. Che roba la massa. E quella lì me lo tenuta, è della seta seccarazzi, no? Perché poi l'ho venduto. Ha detto, boh, assicurazione lì, assicurazione un vespone, bullo, vespone, bullo, indussi, bullo da macchina, cosa devi travagliare, fa pagata. Mi stavo sparando i fuochi, sia a casa tua. Mi sempre, qua, si fa grattarci. Sempre, sì. Sì. Belli, belli, belli. Sì, io. Amica, da poco hanno fatto tutti i fuochi, si alzavano in alto e si scoppiavano le stelle, lo sai che bello. Ogni tanto non che le padre pure se noi fissa. Già lo so. Vabbè, gli avviranni, Ah, secondo me è tutta Roma Andrancida. Ah, non credo, Ma che comprano male, le comprano bene e li vendono anche. Qui mica costano bene quei pezzati che salgono in aria, che scoppiano con le stelle. Non è che costano i due cicli, no? E già se li lanci se uno. No, prima un tempo, ma in mano, come li comparavo, pavo in dilli, a poi chi mi pagavo, cioè, alla fine non li pagavo neanche, perché mi rimaneva lo sgombo, no, dei petardi, e li scoppiavo. Oh, sì, ho recuperato due petardi, e so, spesso farci vedere un incendio, mi parlo di sette di. Sì, vabbè, noi oggi fa nulla, ma sai. Io qui, la zia Maria, e con quelle passo a guacciarà. Forse arriva che ci dà giù di valla. Sì, la Vaura sarà. Cosa? Ha giudito, la Vaura sarà. Sì, no, sì. Adesso Marina non lo so, anni indietro c'era il Far West qua, io l'ho visto qua in piazza. Uno ha un capo della piazza, uno fuggito, e l'altro ha l'altro capo della piazza, Maria, l'Ufficio del West, che si può rinunciare all'altro, e prima farà Baudio, poi farà Palazzo, ma venga a cagliare. Beh, certo. Ma anche al monte già ne sparano, Già lo so, anche al monte non è di meno, già lo so. Vabbè, al monte so di più col fucile da caccia. E da me che andiamo a fare la polizia invece da ricarci di proprio, che è andato a rompere le scatole, la vita c'era di pindelli con i fucili. Alla ricarda gli si c'era di pindelli e anche tu. Non si sa caiga, hai compreso, e anche se ce la metti bene l'ha rischiato. Addirittura. Io ho visto tutto il passato, quindi si ha visto la caiga, la nuova, chi sa, perché l'ha fatto, da una mano all'altra rimane, ed è sparito, quando sono andati da solo non gli hanno trovato niente. Stare attenti, basta non uscire e buonanotte. Allora, aspetta, io te la mia auto proprio con un fuggito e l'ha risciato. Un anno mi ricordo eravamo in campagna, la veranda, periodo di caccia era. C'è questa graminata di ballini, dei cacciatori, che erano dentro quello ripeto che era anche di dietro di caccia, e erano di lì appostati. E c'è venuto un graminata, ha detto già, sotto la veranda non era di lui, ma niente. Lo fuggi no. Ma la volta di buzzare in massa, se ho vissuto di quattro distruggere ci l'ha dibuccati. L'ha detto la prossima volta, mettiamo i carabinieri. Attento, ma come stavo a mettere le giacche per i massimi minuti? Ma non ho preso che a 300 metri di fronte a due ci sono le statue e ci sono bambini. Quattro imbecilli. Ma tu già fai, si fuori a sparare, sì, con il tuo freddo. No, apri va fuori, te lo garrappa, da rischio. Mi fa, dai, chiudo e ho finito. Ah, ho capito. Ma io sparo in aria, mica sparo come si spara nei rimasti. A raso in terra o in alta rimasti. Io sparo in aria e tu al vuoto. Beh, certo. Ma non so tutti come al tempo, almeno, che è fermato di mezzo sempre dentro. Senti pericolosa proprio. Non l'hai vista quel ragazzo? Che hanno sparato due proiettili vaganti. Ma quando va di buona a sparare due proiettili vaganti e quindi si tira niente a macchina lì, che è ancora all'ospedale quel ragazzo. In fin di vita. Non lo so, miracolo che ancora lì, pure se è fin di vita, l'ha pigliata a capo, non ha più di e io vi curo così, ha tirato una corrata di paglia, un elefante, l'ha ripiccato io proprio a testa, mi ha spappolato la testa, e oltre quanto era grande la testa, quanto un po' un verde. Senta, addirittura. Ed è parato gli occhi in terra, a carezzare, anche se sta mezz'ora, questo è babbo. Che radio non è a per babbi? Per carità. Vabbè, a me non me l'ha fottinuta. A me è capitato un bel po' di anni fa, ma ti parlo che ero alla fine un ragazzino, là. Ragazzino, vabbè, ero maggiorenne, comunque. Ho preso questo petardo, che non ha scoppiato, l'ho un po' sbucciato, l'ho acceso perché c'era ancora la miccia, no? Quando l'ho acceso, che cosa, mi sono allontanato perché si vedeva che era acceso, non scoppiava, l'ha giù fatto il macco, l'ha giù umiliato, mi sono avvicinato, l'ho preso in mano, mentre l'ho preso in mano mi è scoppiato in mano. Non è lì a cui che sono i non devi solo tagliare, pure il dito, o un qualche cosa, o un cucciarretti, perché possono sempre esplodere anche lì sia la giuga. Ma nel buio di un anno, tanti anni qua, in casa sua, qua sotto di me, ha appoggiato la scatola dei magni sopra il televisore, ha cominciato a cucciare la giuga, a ribettarsi i magni. Io l'ho spaccato tutta la camera di mezzogiorno, tutte le visioni, la porta a finestra, tutto il sito di stare in piazza a ripetarsi. Non posso immaginare. Mica la sì, l'ha appoggiata a tutte le visioni, intelligente, col calore del televisore, l'hanno surriscaldato, lo zolfo vecchia, sono esplosi. Diciamo adesso, mi sto guardando. Sto guardando qua un video, c'è coso, come si chiama? Piero Pelù in Piazza d'Italia. Già non è solo mia figlia, no, mia figlia due anni a Alghero, non lo so chi c'è Alghero. Iaia, per carità. Ma già, vanno là, 35 euro a persona, pagano. 35? Ehi, Alghero, mia figlia quella di gioca a pallone, è andata con un altro suo amico, pagano 35 euro a persona, stanno il fenone, no? Mi sono fatti di nuda, nel senso mica si viene a finta cucina, no, quello che è già pronto, grazie. Io che quasi ci sto pronto. Sto giungendo in gara tombola, in salone, a mangiare da vivi, da bicchiera a buio, da bubuiarci già. Cosa fa? Va? Per quanti siete? Allora, sono io, mia moglie, l'altra mia figlia, mia cognata, mio nipote, e là è il mio nipote. Trasparente siamo, io, Paolo, Deborah, tre. Lisa, Sandro, Ciclo, Lisa, sei. Noi siamo in tre invece. Dobbiamo finire anche mamma non sta bene che... e di nuovo a scariche, puruetta, se ne sta a casa, tanto cosa me ne ha fa, non può magna. Sì, vabbè, se non sente bene un conto, però se tu gli avvarà, avrebbe fatto con i compagni anche per lì, e ha stato un po' tu in compagnia, ma fa è da me, a chi? Se rimane a ragione a Badi, rimane Badio Bui, la sua tutta sera fina, ma se lo state bene Badi voi. E adesso noi mangiamo, poi vediamo un po'. Tanto cosa devi fare la puntura, ma anche se gliela faccio anche alle 10:30, cosa gli fa grazia, non gli fa nulla, vero? Oh, io quella della notte me la faccio anche alle 10:30, a mezzanotte, prima di coricare. Ma ne guardo io l'aria, non portate che ce la fa. E allora gliela faccio male verso quell'ora, alle 10:30, 11:15, 11. Ho l'aria fissa a farmi l'insulina, non ne ho né il manzano, né il mezzogiorno e né la luce. Tanto è pronto, mi devo mangiare e tutto mi dà fuori. E se lo aspetto, no? No, non mi dico. Non mi portate che me la faccio, capito? Una volta quando stavo guidando ancora, me l'ho fatta giocando da tre frate e mezzogiorno, giocando da prima alla prenda niente, alla domanda di mai 23, prende la briscola, mi si è annebbiata la vita, perché mi avevo fatto l'insulina e non avevo mangiato. Vabbè. Oh yes, se vuoi non la giugata. Piano piano lo dati in alto, se c'è la cattività, rimango io qua, solo, io e mia moglie, mi dà di andare un vicino, mi dà di andare con i compagni, non rimango solo io e mia moglie, e per questo non mangio, sì, non mi sento, se mi sento bene già mangio, non lo sapete. Mangiamo, ci seguiamo, ceniamo, ci guardiamo la televisione, ci facciamo le chiacchierate, ogni tanto una ciupatella. Così una ciupata ogni tanto, così è. Allora, io gli ho spesso le scatole, sono sempre attaccato, sempre fastidio. Entendi, Paolo, lucudi, no? Sì, è un invernato, non l'hai mai detto. Che ne sono con un paio di scatti e che già Mariani ci fai da bravo. Stavo mettendo il pellet, stavo cuccati, comunque quello dello spino è buono, ti dà un calore allucinante. Ma questo spino l'ha preso come l'ha preso ieri mia figlia, 4 raffetti, lui mi ha filato da pedigiata, l'ha preso come l'ha preso. Non lo so. Rita! Però scaldi un bel, sta bene. Guarda, tu prendi dalle loro spine e poi me ne torni la risposta. Scalda un bel. Lo so, se anche le loro spine con il volto lo prendo. Dopo di capità, basta che si apete. O se no alla cibernetti lo prendo. No, alle loro spine non sbagli. Da un caldo micidiale, non ci puoi stare vicino. Ed è a tre, Già lo prendo anche lì alle loro spine. Ma se vuoi, non andare da un'altra parte, se sono lì alle loro spine, non comprate a lì. Ne ho mai messo a 59, bello quel programma. Stanno bene, un po' di cose, stanno bene la pesca. Quelli che vivono in Alaska e cacciano per mangiare, ok? Ah sì, sono mezzi pesanti. Ci sono accanto una donna con il camion, una biondona, con quel tiro, hai visto quanto camminano? Sopra il ghiaccio con quel tiro. Sì, già l'ho visto. Ma quelle sono come fatte apposta per la neve. Comunque si andava a un'altra di noi che a camminare, come si camminano i bici, si dà, sta ammazzando i bici. Sì, no, è davvero. Già, quando ho fatto qualche viaggio all'estero, con un camion, fammi la parte di gioca perché non conosci le strade, non sai i posti, e devi consultarti sempre la cartina, allora mi guardavo e già il percorso me lo segnavo, però c'è sempre il timore di sbagliare. Vabbè. Qui qua c'è gente che sta già brindando. Buona brindata, figlia. E allora mi hai mandato la video chiamata da Ombra, mia nipote, lui vicino di una e travagliando di talenta di mangiare, perché lavora in ristorante, in cucina. La ragazza mia nipote fa lavorare un negozio di abbigliamento di stilisti, un negozio famoso che c'è lì a Londra, americani sono i proprietari, e l'altra invece lavora con il ragazzo un altro ristorante. Sì vabbè, no, a me piace molto questo. Diciamo che danno sempre le solite cose. Vabbè, da YouTube per esempio si è... non riesce ad andare avanti, c'è un bel di neve, mamma mia, come cazzo fa la lavare lì, come si fa? Ma un bel di neve, sa che in chi viene più di mezzo metro. Da altro cos'è, quel rivolto è uscito più a destra. Non è il posto. L'hanno visto quello, e poi vengono gli altri camionisti a dargli una mano. E mi rubano. Sì, infatti. Ah, si è tagliato questo qua. E allora è quello che ho già visto. La lui ha fatto vedere. Però già fanno vedere anche altre cose. È bello quel canale. Anche il canale che fanno le case in legna. Vabbè, dai. Ci sentiamo più tardi la domani, devi fare una tombolata nel frattempo. Ciao Luca, buona cena. Auguri di buon anno, se non ci sentiamo dopo. Ma la giusta meglio. A domani se no. Guarda anche a voi. A domani se Dio vuole, buona cena. Sì, ciao, ho ricambiato il tutto, ciao.